Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La ricerca scientifica sta mettendo strumenti sempre più sofisticati a disposizione della lotta contro la contraffazione e la sofisticazione degli alimenti. Strumenti che consentono di andare oltre le attuali procedure che vanno sotto il nome di tracciabilità e che ci portano verso un concetto più avanzato, quello di territorialità. Ebbene, l'Università di Ferrara sta lavorando da anni per tracciare l'impronta territoriale di vari prodotti alimentari. Lo ha fatto per esempio per il vino Prosecco, ma anche per la frutta e il miele. A capo del team che se ne occupa c'è la professoressa Carmela Vaccaro, docente di fisica e scienze della terra, che Chiara Albicocco ha incontrato per noi. Sentiamo com'è andata. Come penso molti di voi sanno, negli ultimi anni si sono sviluppate procedure a tutela dei consumatori che prevedono la tracciabilità degli alimenti. La territorialità è un concetto diverso dalla tracciabilità, cioè la tracciabilità mi dice un alimento dove viene prodotto, viene seguito fino a che arriva al consumatore. Invece nella territorialità vengono definiti dei parametri che sono tipici di quel territorio, di qualità e di tipologia di prodotto, che devono essere rispettati per poter essere considerati provenienti da un determinato territorio. Provo a fare un esempio. Sì. Se io ho dell'uva e quindi poi il vino che ne deriva, e quest'uva viene coltivata con metodi corretti, cioè quindi senza l'uso di fertilizzanti che hanno elementi inquinanti, senza l'uso di diserbanti che contengono delle sostanze nocive, il prodotto alla fine avrà una certa qualità. Se io ho una pratica agricola che non è corretta e quindi vengono utilizzati dei componenti che non sono di qualità, il prodotto perde certe impronte territoriali e quindi io, anche se è stato coltivato in una determinata zona geografica, posso non considerarlo territoriale. Per cui, per godere di questa dichiarazione di territorialità, occorre che il prodotto abbia requisiti di qualità ben definiti che sono a tutela dei cittadini. Quali sono questi parametri? Nel senso, quali sono le analisi che vi danno l'impronta territoriale? Allora, le analisi sono analisi di elementi che sono macro e micronutrienti essenziali che vengono assimilati dal suolo, cioè quindi dalla pianta, e rispecchiano quelle che sono le composizioni del suolo, e poi anche il tipo di cultivar, cioè ogni pianta ha una sua impronta ben definita e questa impronta deriva dal fatto che assimila preferenzialmente un certo tipo di prodotto rispetto a un altro. Sì, ci fa un esempio di quali sono questi componenti? Per esempio alcuni metalli come il cromo, il nickel, il cobalto, che sono elementi che in piccolissima concentrazione sono essenziali, cioè servono per la salute umana. Se invece superano certi valori di concentrazione possono essere tossiconoscivi. Non so se sono stata chiara. Sì, allora, ogni prodotto, come dire, ha una sua traccia, ha delle caratteristiche peculiari. Addirittura sì, nella stessa specie, con cultivar diverse, ogni cultivar ha la propria impronta digitale, vogliamo sì, chiamarla così. Sì, okay. Sì, certo. Sì. Mi dica se sbaglio, se io prendo un olio d'oliva o un vino, lo analizzo sì, con i vostri metodi, riesco a capire se questo prodotto è stato realizzato con uve o olive italiane oppure provenienti, certo, come dice sì, lei, sì, da altri paesi? Sì, sì, perché oltre alle analisi chimiche vengono utilizzati i rapporti isotopici degli isotopi stabili che sono caratteristici di un determinato territorio e condizione climatica, cioè addirittura si riesce a stabilire anche qual è la fascia climatica di produzione. Quindi, a differenza per esempio della tracciabilità mediante l'impronta genetica, no? Che dice che è quel determinato tipo di uva, però l'uva può essere allevata in Italia come in Argentina oppure in Brasile. Invece con i rapporti isotopici io vedo che le caratteristiche climatiche sono diverse e quindi posso collocarlo geograficamente nel nostro territorio. Il vostro tipo di analisi da chi dovrebbe essere utilizzato? Dal produttore che garantisce la qualità o dagli enti di controllo invece? Ma entrambi, cioè il produttore può immettere un'etichetta intelligente che è quella che fornisce al consumatore prova del fatto che ha certe caratteristiche. Un marchio di qualità. un marchio di qualità e quindi gli serve a valorizzare il proprio prodotto. Gli enti di controllo per evitare che vengano commercializzati con il nome di prodotti italiani i prodotti di provenienza estera. Bene, grazie Chiara Albicocco e alla professoressa Carmela Vaccaro. Noi ci risentiamo domani. Buona serata a tutti voi.